È uscito lo scorso 21 maggio Meridiana, il nuovo disco del canzoniere grecanico Salentino, e noi ne parliamo con Mauro Durante, che è al telefono con noi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora Mauro, è appena uscito in versione digitale, perché poi invece il supporto, diciamo, fisico lo avremo il 28 agosto, però questo disco ha già dei premi internazionali. Siamo molto molto felici dell'uscita, per noi anche simbolicamente vuole essere un segno di rinascita, di primavera, quindi già questo per noi era un segnale importante. E poi la celebrazione che sta ricevendo Meridiana da parte della stampa nazionale e internazionale sicuramente ci sta dando grandissima felicità. Internazionale è anche, come dire, sono anche alcuni degli ospiti che si trovano, che hanno collaborato al disco, ma anche artisti del panorama nazionale. Puoi raccontarci un po' le collaborazioni? Il disco è coprodotto con Justin Adams, è un produttore e chitarrista inglese, per anni è stato il braccio destro di Robert Plant, dei Led Zeppelin. È stato fondamentale in questo lavoro, ci ha tenuto particolarmente a far uscire da questo album anche la nostra anima live, quella che poi è il nostro habitat naturale, quello dei concerti dal vivo in mezzo alla gente. E poi accanto a lui ci sono due artisti importantissimi, Enzo Abitabile, napoletano, un maestro indiscusso, un gigante della musica italiana e non solo nel mondo, e poi la band newyorkese Red Barat, che è composta anche da vari elementi di origine indiana, con cui poi abbiamo scritto il pezzo Pizzicabanga, che è questo incontro appunto tra questi due stili di musica e danza in due parti opposte del mondo, il Salento e appunto il Punjab, da cui viene il Bhangra. Meridiana, appunto, è il titolo dell'album, contiene 12 tracce, proprio come sono appunto i segni sulla Meridiana, ed è una riflessione sul tempo che fate. Sì, siamo partiti proprio dall'interrogarci su quello che noi facciamo abitualmente, cioè prendere una musica, una danza, delle tradizioni che ci arrivano dal passato e tradurle per il presente, renderle attuali. E quindi già in questo noi stiamo giocando con il tempo, quindi questa è stata la scintilla iniziale, da lì abbiamo iniziato ad approfondire, a leggere, a trovare tante ispirazioni in filosofia, sociologia, letteratura, epica, mitologia, anche fisica, e accanto a queste poi affrontare quei temi archetipici che sono per loro stessa natura senza tempo, come l'amore, la sofferenza. E la Meridiana ci segna l'ora attraverso la luce del sole e l'ombra che proietta, e noi italiani che abbiamo questo rapporto viscerale col sole possiamo dirlo chiaramente, come quando c'è anche questa grande luce, questa cosa fantastica, inevitabilmente anche le stesse ombre diventano lunghe, e quindi raccontiamo quello che viviamo giorno dopo giorno, luci e ombre. Tu prima facevi un ragionamento anche su, come dire, le sperimentazioni con altre tradizioni musicali, parlando di tempo e il dialogo è anche tra le generazioni, no? Sì, assolutamente, infatti c'è questa un po' incomunicabilità che spesso si avverte fra generazioni, anche adesso all'epoca dei social, e sicuramente il tentativo di dialogare con il passato non è soltanto un passato che non ci appartiene più, ma anche l'incontro da generazioni diverse, il tramandarsi di sapere e conoscenze, l'aggiornarsi di questi stessi saperi, di queste conoscenze, e quindi è fondamentale comunque esplorare, negare il tempo anche attraverso questo, attraverso poi il rapporto con i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri figli. Alla fine è una cosa importantissima nella nostra vita, riuscire a comunicare, a comprendersi nelle differenze, aprirsi, non soltanto un dialogo verso luoghi o mondi lontani come possono essere gli Stati Uniti, l'India, l'Inghilterra, ma anche all'interno di una stessa famiglia, alcune volte la possibilità di trascendere i confini del tempo e delle barriere e arrivare a toccarsi, a comunicare, è fondamentale. Beh, devo dire che ascoltando Meridiana, come dire, lo scontro, diciamo, generazionale che ogni tanto viviamo, invece ha trovato un accordo, una sintesi, perché è un disco ovviamente sia che attinge il passato ma molto molto moderno. A proposito di tempo, sono passati 4 anni prima dell'uscita di questo nuovo album dal vostro lavoro precedente. Nei tempi, diciamo così, discografici sembrano un'eternità, ma avete voluto fare le cose con calma? In linea di massima noi passano sempre un 3-4 anni da un album all'altro, però c'è da dire che Canzoniere, l'album precedente, è stata un'esperienza molto intensa. Ci ha portato poi in tour, in giro per il mondo, dappertutto, ci ha portato a vincere i Songlines Music Awards come miglior gruppo, gruppo e poi a suonare alla Royal Albert Hall per i BBC Proms a Londra, e quindi c'era bisogno comunque sia di vivere quell'esperienza che di trovare poi la chiave giusta per proseguire. Meridiana lo è stata, ci ha ispirato moltissimo, e poi sicuramente l'arrivo della pandemia, se da una parte ha amplificato l'intensità di questa riflessione sul tema principale dell'album, cioè il tempo, dall'altra ha complicato la realizzazione, il lavoro per fare questo album, perché ci ha costretto ad essere separati gran parte dell'anno, nel 2020, quindi senz'altro diciamo un ritardo è dovuto anche a questo. Ma al di là della, come dire, della pandemia, dei problemi che ha generato, ti volevo proprio fare una domanda su, come dire, la frenesia e il consumo veloce che si fa oggi della musica. Tu come la pensi? Credo che non sia soltanto la musica ad essere approcciata con frenesia. Penso che in un certo senso noi siamo schiavi di scadenze, orari, di questo senso quasi oppressivo del tempo lineare, e accanto a questo siamo schiavi delle nostre stesse aspettative in relazione a quelle che sono delle timeline imposte da alcune pratiche di lavoro o noi stessi, i nostri stessi diciamo sogni, obiettivi, e questo diventa una costrizione, quella che viene chiamata anche la società della performance, no? Dell'esibizione continua, tutto è un progetto, tutto deve essere finalizzato ad essere profittabile, quindi non ci può essere una vita diciamo piena e felice soltanto con questo, è importante che venga incluso per essere felici di momenti di contemplazione, di ozio in senso nobile, la possibilità di non dover necessariamente misurare e rendere il tempo per forza proficuo da un punto di vista diciamo utilitaristico in un certo senso. La musica rientra in questo discorso di fruizione veloce, ma se non altro continua ad avere questo immenso potere di portarti altrove col pensiero e con i sentimenti, e quindi ce la dobbiamo tenere stretta. Ecco, Meridiana sarà anche un sito internet, un portale? Sì, lo è già. Meridiana-cgs.it, ed è una sorta anche di esperienza come se fosse un libretto immersivo ampliato del nostro album, perché accanto all'ascolto dei brani, i testi, le traduzioni, si possono trovare tutte le nostre ispirazioni e dei contributi video da vari esperti sull'argomento tempo dipanato in varie sfaccettature, più appunto filosofia, fisica, astrofisica, etnomusicologia, ci sono dei lavori grafici, dei lavori fotografici, rappresentano un po' il progetto Meridiana a 360 gradi, così come l'abbiamo vissuto noi. Come dicevo prima, il disco uscirà in CD e vinile il 28 agosto, adesso è già disponibile ovviamente sulle piattaforme digitali, lo porterete anche in giro, avete già alcune date? Sì, partiremo dal 29 giugno nel Salento Corigliano d'Otranto, poi il calendario estivo si sta lentamente riempiendo adesso che le norme stanno diventando leggermente più chiare, e il CD comunque sarà disponibile già da fine giugno, sarà con noi, lo porteremo ai concerti, quindi sarà diciamo in qualche modo sarà possibile ordinarlo prima del 28 agosto, in cui ci sarà l'uscita poi soprattutto internazionale del prodotto fisico. E allora io ti ringrazio e andiamo ad ascoltarci la traccia che dà il nome all'album. Grazie mille e insomma buon lavoro e bocca al lupo. Grazie a te, un saluto a tutti e a tutte.